insieme, insieme stasera. Ti porto ai laghi verdi. Zigzagheremo mano nella mano, coi pattini in mezzo al traffico cittadino. Con le nostre tute attillate e le mascherine, coi filtri nuovi. Ci sdraieremo su prati sintetici, con le mani dietro alla testa. Lontani anni luce ormai dalla fabbrica dai suoi giorni radioattivi. Sarà bellissimo baciarti e dirti amore, come ha gusto il mondo. Sarà bellissimo baciarti e dirti amore. Se il nostro amore fosse troppo rivoluzionario, che vengano coi bastoni a prenderci, a chiuderci in celle gelide, a pane d'acqua, o a dormire per terra come le bestie e i barboni. Stringeremo più forte, perché questo amore può e deve cambiare il mondo. Stasera ti porto ai laghi verdi fosforescenti. Le luci della città saranno lucciole, il fumo dei tombini, nebbia che ci avvolge, le bombe lontano, fuochi d'artificio per noi, che la fine verrà bambina, ma non stanotte. La fine verrà bambina, ma non stanotte.